Linee d'ombra di Matteo Caccia. Questa è Linee d'ombra, questo è l'appuntamento del fine settimana di Linee d'ombra. È una mezz'ora, proprio è una mezz'ora compressa in cui mettiamo insieme la parte finale di ogni puntata della settimana. Linee d'ombra è in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16, e nella parte finale noi raccontiamo una storia a puntate, che è una storia che dura quindi da minimo un mese, massimo due. Vi stiamo raccontando in queste settimane la storia di Anna Maria, che ha raccolto Mauro Pescio, come sempre fa Mauro, che è una storia che ha a che fare con, chiamiamolo così, con il vizio della gola, perché attraverso il cibo e attraverso il privarsi del cibo Anna Maria decide di, in qualche modo per lei, rasentare la perfezione, ma poi lentamente, a causa anche di una depressione, di farla finita. Fortunatamente quel periodo ce l'ha alle spalle Anna Maria, e Anna Maria sta crescendo sempre di più e scopre la storia del cibo. Quando sono uscita dall'ospedale volevo iniziare ovviamente a lavorare, però non è facile dire che riprendi a lavorare e hai questo buco nel tuo curriculum di un tot di tempo e uno può dire ti sei licenziata e sei rimasta a casa. No, ero ricoverata in un reparto di psichiatria. Tanto carino nel tuo curriculum questa cosa non c'è. E per cui anche lì è stato il primo scoglio da superare. Quindi qui è il 2003. Il primissimo scoglio da superare, molto molto duro se vuoi, perché tu devi combattere con delle convinzioni di altri, ma prima con te stessa. Il mio curriculum ce l'avevano parecchie agenzie. Mi chiama una e faccio il colloquio per la logistica di una casa farmaceutica. Mi mettono in contatto con un certo Pietro, ci diamo un appuntamento informale in un bar. Io arrivo con le mie cose, tra cui la mia solita cartella, con i miei soliti due quotidiani, uno di orientamento progressista e uno più conservatore. Ho sempre letto tanto e da sempre ho l'abitudine di leggere due quotidiani differenti. Iniziamo a raccontarci del più e del meno. Mi accenna di avere già visto alcune persone che io conoscevo e che stimavo, di grande spessore professionale. Io gli racconto che ero appena uscita dalla clinica psichiatrica. Pietro mi chiede se voglio uno spritz e io dico di sì. Dopo lo spritz mi chiede se voglio un gin tonic e io gli dico di sì. Quando abbiamo terminato l'incontro mi ha chiesto se avevo bisogno di essere accompagnata a casa e gli ho detto «No, la ringrazio, ho l'auto, vado da sola». La mattina dopo mi chiama l'agenzia e mi dice che ero stata scelta. Era giovedì, lunedì dopo avrei iniziato. Quando il lunedì l'ho incontrato in ufficio, la prima cosa che gli ho chiesto è stata... Gli ho detto «Mi scusi, ma mi ha detto su, diamoci del tu perché non abbiamo tempo da perdere». Gli ho detto «Pietro, ma dimmi perché hai scelto me rispetto a tutte le persone che...» mi fa «Innanzitutto perché mi hai raccontato una cosa della tua vita, sei stata sincera fin dall'inizio e quindi stima e assoluta fiducia. Poi perché reggi l'alcol come un alpino, per cui quindi perché avevo iniziato a far miei determinati tipi di piaceri, chiamiamoli così, e poi perché avevi due quotidiani nella tua cartella di lavoro. E quindi da questo punto di vista per me è il massimo». Abbiamo lavorato insieme per 3 anni, poi mi sono licenziata, ma ho continuato a seguirlo per altri 3 o 4 anni in tutta una serie di attività che mi chiedeva di fare e io gliele portavo avanti. Tra noi c'è sempre stato un rapporto di fiducia assoluta. See the sleep that rests upon the quiet street we're standing on. Is it time to go away and try again some other day? 'Cause these are words we use to say goodbye. These are words you use to say goodbye. Strong on my back and she is gone somewhere else. I do not know, time will tell and I will go. These are the words we use to say goodbye. These are the words.

Grazie ancora ad Anna Maria, grazie a Mauro Pescio che raccoglie la sua storia e ad Anna Maria che ci sta raccontando minuziosamente e con grande luminosità la sua storia, con grande voglia di farla sapere a chi potrebbe servire, a qualcuno che è stato male come lei e che potrebbe magari farne tesoro. Noi vi ricordiamo che se volete mandarci la vostra storia a Linee d'Ombra, l'indirizzo è lineedombra@radio24.it, oppure ascoltatevi i podcast sulla app di Radio 24 oppure ovunque scaricate i vostri podcast. Passate una domenica il più serena possibile, noi ci risentiamo lunedì alle 15 per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!